Ma io ce lo parlo prima di lui, ma l'ha capito. Silenzio, la vecchia! Si è appena... La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Tutti vogliono Berlusconi ai servizi sociali, caro Parenzo. In questi ultimi giorni, in questi ultimi giorni, in questi ultimi giorni, diverse persone si sono fatte avanti per proporre i servizi sociali a Berlusconi. Da chi partiamo? Beh, partiamo da Mario Capanna. Berlusconi, come dire, mi è diventato collega, cioè è un condannato come me. Allora, il ragionamento è: che va a fare? Aiuta le vecchiette ad attraversare la strada, va a pulire i cessi in una comunità di recupero per tossicodipendenti. Io ho detto, e tra l'altro, come dire, sono stato il primo a fargli una proposta. Se viene a lavorare da noi, può mettere a frutto le sue indubbie qualità. Addirittura Gino Strada ad Emergency. Lei prenderebbe Berlusconi a fare i servizi sociali a Emergency? Assolutamente sì. Ah sì? Assolutamente sì. E a fare cosa? Cosa potrebbe fare? Ma questo non lo so, potremmo parlare con lui, vedere, potrebbe dare una mano sicuramente, ma noi non abbiamo nessun problema. Uno dei suoi nemici storici, Don Farinella. Se lo dessero a me lo metterei a fare catechismo. Gli farei fare un corso di morale sociale, qui nella parrocchia, no? Come rubare agli italiani. Ironie, frizzi e lazzi su Berlusconi ai servizi sociali. Iva Zanicchi dice: io pulisco i cessi come lui, con lui. Avete brindato? Dovete riporre i calici, perché non è morto. Se lui va ai servizi sociali, io tutte le mattine andrò con lui. Qualcuno ha detto: perché non viene a pulire i cessi? I cessi li pulisco io e lui mi porta la carta igienica. E al suono del fischietto io mi imbarcherò. Aspettami lassù, andove? All'albero del cocco. Ti scoglio e ti darò il mio cuore. Siamo qui, la zanzara, 800 24 00 24. Parenzo, ci sei? Buonasera signor Cruciani, buonasera a lei e a tutti i radioascoltatori di Radio 24. Buonasera. Lavagliana, attacchi da Savana. Lo stesso Berlusconi che oggi ha detto: i miei avvocati mi riferiscono che il mio futuro è infausto, mi faranno marcire in galera come la Timoshenko. No. Sì, come la Timoshenko, che è stata, dopo varie manifestazioni, è stata abbandonata a se stessa. Pugnalata della Cancellieri, Berlusconi non rientra nell'indulto. Berlusconi rientrerà o no nella sua proposta di legge sull'amnistia e indulto? Io penso proprio di no. Quindi per lei Berlusconi è fuori? Sì, sì, sicuramente. Ecco, non ha avuto pressioni dal Quirinale in qualche direzione? No. Intanto, a proposito di amnistia e indulto, il professore dei 5 Stelle Becchi, come sai, propone addirittura l'impeachment, la messa in stato d'accusa del Presidente della Repubblica. Senti cosa dice Cacciari a proposito, il professor Cacciari. Sono fermo io. Becchi chiede l'impeachment di Giorgio Napolitano per costringerlo a dimettersi dal blog di Beppe Grillo. Ogni giorno ce n'è una. Cacciari che dice? No, guardi, non commentano. Non commentano? No, proprio no, ma si figuri, se commento queste stupidaggini, per carità. Vabbè, Tommaso, faccia parlare d'altro se le interessa, ma proprio di queste cretinerie estreme. Sapevo, stamattina ancora non mi aveva detto che avevo fatto la domanda sbagliata, però ho stoppato adesso. Frammenti, caro Parenzo, dall'unica trasmissione, dal caso unico di una trasmissione che ha fatto vedere in condensato in 2 ore e mezzo il peggio degli scontri, il grande circo, un caso unico nella storia mondiale. Radio Belva. Possiamo riprendere il filo di civiltà? Non riprendiamo niente. Dai. Abbiamo anche la parietta con l'assistente. Ma che assistente di cosa? Tu ti devi scusare con me, perché io ti spacco la faccia. Vabbè, ma tu le balle le racconti a tua madre, cornuto! Le racconti a tua madre! Va bene, ragazzi, dai. There must be well, some reason for you that I just can't see. Well, there is. Well, you're right, son. You see, God put me here. È morto Priebke oggi, eh? È morto Eric Priebke. Sei contento? Infatti, stasera champagne. Champagne. Stappi lo champagne. In che senso, scusami? Adesso, se tu provocatoriamente mi chiedi che sono triste, non posso esserlo. No, sei contento che sia morto Priebke? Dimmi la verità. Pietas umana. No, sei contento. Da questo mondo, d'accordo. Dopodiché, essendo una persona che ha dato la morte. E allora? Sei contento? Non è vero, non hai nessuna pietà umana. Sei contento che è morto Priebke? Sei contentissimo. Some beauty in you that I simply can't spot. Well, there is. Well, you're right, son. You see, God love put me here. He made me just like you. So I'm nature's mosquito. That means I better go fight. A proposito di nazisti, ieri un deputato di Scelta Civica, Sberna, ci ricordava, anzi ci diceva che secondo lui alcuni discorsi di Grillo e dei Grillini sono da Goebbels. Ma Goebbels mi ricordava i discorsi dei nazisti. Sono queste cose qui che vengono fuori, ma quelli dell'unica razza, no? Del chiudersi, perché gli altri sono tutti infetti, gli altri non ci interessano, gli altri non devono avere niente a che fare con noi. Well, some reason for you that I just can't see. Well, there is. Well, you're right, son. You see, God put me here just the same as he put you. So I'm nature's mosquito. Davide, di la verità, sei contento che è morto Giachini? Sì, Giachini, è morto Priebke, no Giachini, quello è l'avvocato. Vodafone, servizio di segreterie telefoniche. Some beauty in you that I simply can't spot. Well, there is. Well, you're right, son. You see, God love put me here. He made me just like you. So I'm nature's mosquito. Salvatore da Napoli, buonasera, Salvatore. Non c'è Renzo da Monza. Renzo? Sì, dica. Crociani, buonasera. Aspetti che spengo la radio. Sì, dica. Allora, ecco fatto. Sì, volevo parlare su Grillo, no, sul voto al Senato, però l'avete dibattuto ieri sera. Dica Renzo, non si preoccupi, allora, vada. Voglio dire la mia sull'immigrazione, perché anche oggi ne sono arrivati 500, con il tempo brutto, figuriamoci se è bello. Volevo dire, qui in Italia, dico 3-4 cose e poi chiudo. Qua in Italia abbiamo il 12% di disoccupazione, con tutti questi poveri cristi che vengono, poi ci sarà la guerra tra poveri. Allora? Questi pagano 1.500-2.000 dollari sui barconi. Se partono di qualsiasi posto dell'Africa con l'aereo, vengono e spenderanno 1.000 dollari. Vengono a Roma, a Parigi, Londra, Berlino senza problemi spendono meno, se vengono sui barconi perché hanno qualcosa da nascondere. Sì, ma non si può fare il paragone, su, venire con l'aereo, venire col barcone, su. Parenzo, rispondi di tu a questo, no, dai. No, dico meno male che anche lei, ogni tanto se ho da oggi le do del lei, per sempre, da oggi inizio a darle del lei. Meno male sono Cusciani che alle volte anche lei appunto comincia a tirare fuori gli artigli di fronte a queste stupidaggini, gli aerei. Ma questo tipo è gente completa, ma dove l'ha messa l'umanità, l'anima? Dove l'ha messa questa gente? Questa gente che telefona, ha lasciato il numero di cellulare, il numero di casa, il nome e il cognome, e la città da dove chiama. Dove ha messo l'umanità? Bisogna chiamare chi l'ha visto, il programma della Sciarelli, per ritrovare l'umanità di questo. Scusate se vi ho disturbato. Scusami, è un paraculo. Dalle memorie di Eric Pripke, caro Parenzo, vediamo un po' cosa ne pensi. Ma memorie di Pripke? Sì, sì, ha lasciato una specie di testamento. Nei campi di concentramento non c'erano camere a gas, ma solo immense cucine. Già durante la guerra gli alleati hanno cominciato a fabbricare false prove sui crimini nazisti. Capito? Allora, capito, cioè, oggi la notizia buona è che è morto e tu... No, ma ha lasciato queste testimonianze, capito o no? Ha lasciato una... Sì, ha lasciato una specie di testimonianza, sì. A 90 e rotti anni ha lasciato, ha avuto, sì, anche il coraggio di scrivere queste bestialità. Sì, sì. E uno non deve neanche essere poi contento, un uomo che ha dato la morte che è morto. Non ho capito, l'ipocrisia tua, i valori, sei felice. Ma sì, ma devo fare... Poi, forza, ma... E conferma delle bestialità, è una persona che ha dato la morte. Sì, avvocato Giacchini? Sì. Sì, buonasera, sono Cruciani, Radio 24, La Zanzara. Sì, senta, mi può chiamare fra 5 minuti che sono con una persona, 5 minuti. D'accordo, grazie, grazie. Con chi è l'avvocato? L'avvocato di Pripke. Michele da Pavia. Sì, giusto. Un abbraccio al dottor Cruciani. Sì, dica. E a Parenzo. Sì. E complimenti per la tua vita. Vada, vada, questo, Michele, su. Oggi sono felice perché è morto Pripke. Sì. Io spero che in tutte le persone che lui ha ucciso, sì, qualcuno sia andato all'inferno per fare in modo che quando se lo incontro davanti lo potrà sputare in faccia. Questo volevo dire, no? No, non ho capito questa cosa di sputare in faccia. Sì, insomma, non è che Pripke si è comportato bene nella vita, no? Sì. Andrà all'inferno, troverà qualcuno che ha detto: brutto coglione, cosa hai fatto? Mo ti sputo in faccia. Questo volevo dire io. Ma perché, scusi, mi spieghi meglio? Insomma, cioè, non ho capito che cosa si augura. Non ho capito che qualcuno sputi in faccia. No, io stasera apro lo champagne. Sì. Perché è morto Pripke. Festeggerò. Ma uno come fa? Io, a me non me ne frega niente di Pripke. Ma come si fa a festeggiare? Parenzo, come fai a festeggiare? Me lo spieghi? Ma no, ma voglio dire, festeggiare, ma come uno dire, che... no, come dire, uno che ammazza 300 persone, così, come se fosse acqua fresca, non lo so io. Ma che c'entra? Ma non ho detto questo, ho detto il festeggiamento, uno dovrebbe essere indifferente, fottersene. No, vabbè, ma io volevo essere vicino a Parenzo perché mi fa piacere. Anche le fa se piacere. A me personalmente, la mia famiglia non ha mai fatto niente, però non penso che si sia comportato bene nella vita. Va bene, Michele. Alberto da Rieti, buonasera. Sì, vada Alberto. Buonasera, io volevo qui insieme alla Zanicchi per andare a subire i gesti del uomo. Non ho capito niente. Francesco da Milano. Sì, buonasera Cruciani, buonasera. Dica. Parenzo. Io volevo chiedervi perché siete così di parte nell'esporre le questioni del Movimento 5 Stelle. Sì. Non vi stanno antipatici, avete degli ordini dall'alto. Non Ma so, quali ordini dall'alto? A proposito di cosa, scusi? Ieri avete parlato appunto del Movimento 5 Stelle e avete detto almeno la metà delle cose che dovevate dire. Per esempio? Ma per questa esempio, non è una, come dire, non è una trasmissione dove si spiega la posizione, no, del Movimento 5 Stelle, ha capito? Sono giornalisti e siccome i giornalisti a mio avviso devono fare, sì, informazioni, voi la fate in parte. E che cosa dovremmo dire? Per esempio, che è l'unico movimento che ha mantenuto la promessa di restituire finanziamento ma pubblico. Cosa c'entra con la questione dell'immigrazione questa no, qua, scusi? No, no, beh, cosa c'entra? Parlavamo della questione dell'immigrazione. Io, no, scusi, io ero fermo ancora ieri sera, mi perdoni. No, ma anche ieri sera abbiamo parlato solo di questo. Abbiamo parlato solo della questione dell'immigrazione, non è che dobbiamo fare... Scusa, non ti offendi, tagli sempre quando vedi che dall'altra parte ti portano delle argomentazioni che ti mandano. Senti, Francesco, io sono d'accordo, guardi, se proprio lo vuole sapere, Francesco, io sono d'accordo sia con la posizione di Grillo sull'immigrazione, sia con la restituzione dei soldi, però dunque su questo fronte proprio non mi può attaccare, sono d'accordo con tutte e due le cose, con tutte e due le posizioni di Grillo, dunque... Fra te e Parenzo, sono a metà strada, nel senso che io farei questa cosa qua, io i primi sei mesi li metterei qua, li ospiterei in maniera decente, sì, tipo il New Deal. Vabbè, di Roosevelt, quello che lei vuole fare con gli immigrati, siccome non ha la possibilità di farlo adesso, ci interessa poco. Io le stavo rispondendo, quello che Grillo pensa a proposito degli extracomunitari e quello che Grillo pensa a proposito della restituzione dei soldi, io sono perfettamente d'accordo. Dunque non abbiamo riportato nulla di incompleto, nulla, nulla, nulla. Intanto si è rovesciato un barcone nel canale di Sicilia con 250 persone a bordo e sono stati avvistati dei cadaveri. Maria da Roma, buonasera. Maria. Pronto, buonasera. Dica. Senta, continuamente televisione, giornali, cioè, interviste, eccetera, eccetera, hanno sempre detto che la legge è uguale per tutti, che le sentenze vanno rispettate, che eccetera, eccetera. Ora, se c'è un'amnistia, sì, oppure c'è un indulto, sì, perché indulto, Berlusconi, sì, non è uguale agli altri? Perché guardi, l'amnistia e l'indulto la decide il Parlamento. Oggi il Ministro della Giustizia, durante la trasmissione di Minoli questa mattina, ha detto che l'amnistia e l'indulto non si applicherà a Berlusconi. Io lo chiedo al Ministro della Giustizia. Secondo lei dovrebbe comprendere anche Berlusconi. Salvatore da Napoli. Buonasera, Cruciani, Salvatore da dica, Napoli. Dica, dica. Allora, poche cose molto brevi. Berlusconi è il più grande imprenditore, il più grande politico di tutti i tempi. Vabbè, questa non è, questa è una cosa così. Non l'hanno capito. Sgarbi è un cornuto impotente, vaffanculo Pribke, e tu sei un grande. Molto brevemente. Non ho capito, scusi, non ho capito nulla. Allora, Berlusconi è il più grande uomo politico, ma che vuol il dire? Più grande imprenditore di sempre. Ma che vuol dire lo questa vogliono frase? Mettere a, lo vogliono mettere alla gogna, ma non ci riusciranno. Sì, non ci riusciranno. Lui è un grande e si riprenderà. Va bene, poi? Pribke, vaffanculo. Beh, vabbè, Pribke. Vaffanculo, Pribke è morto, però. È morto oggi. È vaffanculo due volte, visto va che bene, è morto. Poi? E due. Sgarbi è potente ed è un va cornuto. Va bene, Salvatore. Sì, sì. Sì. E lei o tu come preferisce è un grande, lei è un grande, è un grande. Benissimo, ma ha ammazzato così Parenzo, è ucciso, ma in questa filippica t'ha ucciso la zanzara, è quell'odioso insetto che non mi fa dormire la notte. Ma sai che ti dico alla fine, David? David? Gratta, gratta, vabbè, andiamocene, dai, su, via ragazzi, andiamo via, dai. Che stiamo a fare? Vi benedico e vi esorcizzo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. E certo, di questo abbiamo bisogno, dai. Titoli del TG3, dai. Ladies and gentlemen. E adesso i titoli del TG3. E ascoltate cosa deve dire. I legali di Berlusconi presentano la richiesta di affidamento ai servizi sociali. Lui si sfoga, mi faranno marcire in galera come la Timoshenko. È sempre polemica sull'ipotesi di amnistia. Il ministro Cancellieri non riguarda Berlusconi. Bagnasco spiace che Napolitano sia stato travisato. Grillo scatena il blog contro Napolitano. Ci vuole l'impeachment. I suoi parlamentari respingono l'out-out sulla clandestinità. Non cambiamo idea. Con l'ok del Senato diventa legge il decreto contro il femminicidio, Letta giorno importante, polemiche per altri provvedimenti inseriti nel testo. Salvataggio all'Italia, ora tocca le posizioni ai Sarmi, non useremo i soldi dei risparmiatori, gli azionisti e la compagnia dicono sì all'aumento di capitale. Nuove drammatiche notizie al canale di Sicilia, si rovescia un altro barcone, sarebbero già stati avvistati dei cadaveri. È morto a Roma Erich Priebke, ufficiale nazista che organizzò la strage delle fosse ardeatine in cui morirono 335 persone. Non si era mai pentito, aveva 100 anni. Sai che ti dico, David, alla fine, alla fine della storia, proprio alla fine della storia, in realtà all'inizio della storia, non alla fine della storia. Beh, perché alla fine? Che abbiamo fatto una puntata meravigliosa di una cosa che rimarrà alla fine nella storia la state spolpando tutti. Il Corriere della Sera, che oggi ha mobilitato un linguista, credo un critico letterario, no, presidente emerito dell'Accademia della Crusca, sì, poi un critico letterario, se non sbaglio, un critico televisivo come Aldo Grasso. Il Corriere della Sera, criticando giustamente quello che è accaduto, alcuni sì, altri meno, esatto. Criticando, poi si scopre che nei loro siti, nei loro rispettivi siti, sono le cose più cliccate. Assolutamente. Oggi il Corriere.it a un certo punto aveva fatto, con uno spezzone di Radio Belva, 91.000 click. La state vedendo, rivedendo, sezionando. Ci basta questo, ci basta questo. E ci mettete pure la pubblicità. Chi è che sta parlando adesso? Maria Giovanna. Io, ho detto che lei ha ragione. Lei sì, ha... certo che ho ragione. Io ho solo paura di quella vecchia... Sì, io sinceramente non vorrei fare un incontro di pugilato con lei. Dai, chiamiamola. La vecchia, la signora vuol sapere, Sgarbi intanto fa l'incazzato, no, la gente. No, perché noi viviamo la signora, un momento di imbarazzo totale. E tu devi rispondere, sì, e darle un consiglio. Sì. Si vuole rifare la faccia come fatto tu. Sì. Mi dispiace. Quanti soldi domanda la vecchia? No, pochissimo, signora. Un milione. No. Prima di lui, ma l'ha capito. Shhh, silenzio, la vecchia! Si apre. Che poi lui tiri fuori che vuole essere candidato è un'offesa, per cui io da voi non verrò più. Ma no, dai, ma avete rotto il cazzo, no? Non sono qua a farmi offendere da due. Ma nessuno ti ha offeso. Ma che sbaglio, offeso? Se fosse vero... Perché un'offesa? Tu volevi essere candidato. Tu volevi essere candidato. Tu, da N, io ho visto, tu, me l'ha detto Fini. Fini mi ha detto, quel cruciano veniva a leccarmi il culo per essere candidato. Te lo dico io, tu, e anche lui. Lui dalla Lega, da Bossi, da Bossi, da Bossi, da Bossi, da Bossi. Io ho visto, hai leccato. Voi due, leccaculi. Lecca culi, mio figlio! Il mio obiettivo, il mio obiettivo è mandare in merda la vostra televisione, come cercate di fare con gli altri. Volete mandare in merda gli altri? Mandate in merda voi! Io sono più bravo di voi! Sì. Vi mangio vivo! Certo. Oh, non rompete il cazzo! Rispettate la sorte! Lei rimane qua! Avete... Qual è il problema? No, il problema è che sei un coglione! Dillo che tu, dillo che è un coglione quello! Che è un coglione! Una cosa del genere non si vedrà mai più, mai almeno più. In prima serata, almeno più. Sicuro, mai più proprio, mai più. Ma perché non fanno un bel cofanetto? Io farei un bel DVD, un cofanetto, No, ma sta andando a ruba, tu hai fatto molto bene a ricordare, ma gli accessi, hai citato il Corriere. Sì. Ma è uno dei video più visti su YouTube, cioè è una cosa, io credo che neanche la caduta di Saddam Hussein ha provocato reazioni così contrastanti, ma di che stiamo parlando? Le torri gemelle. Ma no, da quello forse è stato visto quel video, ma la cattura di Saddam, quando viene estratto, neanche quello è stato, ha avuto questa visione. C'è qui ad esempio il signor Telese, dov'è? Sì. Vabbè, chi se ne frega, dai, Paolo da Torino. Paolo, chi se ne frega? Paolo da Torino, Paolo. Pronto, buonasera, Cruciani Parenzo. Dica Paolo, adesso fra poco mi passi Telese, un attimo, Paolo. Sì, allora, buonasera, mi sentite? Sì, sì, dica. Allora, buonasera Parenzo Cruciani. L'abbiamo detto, buonasera, su Paolo, avanti, e dai. Due argomenti, il primo, Radio Belva, se siete d'accordo sulla sospensione di questo programma, al di là del fatto che è successo... D'accordissimo, siamo d'accordissimo, poi? E sul fatto che siete andati in prima serata in diretta con un ospite che comunque... Chi era questo ospite? Chi era questo ospite? In particolare che vi ha dato il successo... Noi siamo d'accordo su tutto. Perfetto. Su tutto quello che dice lei siamo d'accordo. Il secondo argomento rapido, la scommessa che lei aveva fatto sui servizi sociali di Berlusconi. Sì. Non so se no, io ho fatto una scommessa su Capanna, cioè se Berlusconi va da Capanna, metà del mio stipendio va alla fondazione di Capanna. Okay. Ma non avverrà. Perfetto, mi ha dato lo stipendio, alza la posta. In che senso? Nel senso che, visto che si sta concretizzando qualcosina sui servizi sociali, mi chiedevo se... Ma che c'entra? Ancora... Ma non c'entra niente. Io ho detto se vado a Capanna, non ai servizi sociali. I servizi sociali hanno deciso oggi di chiederli, no? Ah, ho capito, va bene. Allora, vabbè, Paolo, non ha capito niente. Buonasera. Chi c'è dall'altra parte? Chi c'è da là? Sei tu dall'altra parte, che ne so. Claudio da Roma. Che no, so, se n'è andato. Claudio da Roma. Claudio! Ciao a tutti. Buonasera a tutti. Sì. Posso dire una cosa, una considerazione semplice che ci avevo visto da un po', è politicamente scorretta, che non la dice nessuno, però vorrei dirla. Non so, Claudio, già ci ha messo 20 secondi per dire che è una cosa... Berlusconi, insomma... Non ho capito, non si capisce niente, Claudio, parli chiaro. Purtroppo, scusate, che non prende benissimo qua. Allora che telefono dire, a fare? Politicamente scorretto, sono contento che Berlusconi lo stanno mettendo all'angolo. I servizi sociali è un godimento unico che aspettavo da anni. Lei sta godendo? Beh, ma ognuno ha le sue perversioni. Se lei è malato di mente, va benissimo. Prego? Se lei è un po' malato, cioè, perché gode, no, beh, gode certo, con vabbè, i servizi sociali di Berlusconi. Potrei spiegarglielo chiaramente. No, ma me lo spieghi perché? Mi spieghi il motivo. Perché diciamo che mi sono sentito offeso dal suo comportamento nel corso degli anni. E dunque lei gode se va ai servizi sociali? Scusi, concludo. Sì, ma non c'è concludo qui. Una persona che è stata condannata e si deve occupare di fare leggi, bene, che insomma non si... Ho capito perfettamente. Dunque lei gode, lei gode se Berlusconi va ai servizi sociali, giusto? Molto contento. E vabbè, Claudio, ognuno ha le sue soddisfazioni. Se gli piace così, ognuno ha le sue soddisfazioni. Cosa vuole che le dica? Luca da Roma. Sì, buonasera. Buonasera a tutti quanti. Io ascoltavo indignato le persone che erano felici della morte di un uomo, soprattutto di un uomo come Priebke. Sì. Che non pretendo che piaccia alla gente, ma se non altro che la gente rispetti il fatto che è un uomo che non ha chiesto scusa, come fanno in molti, per ottenere dei vantaggi, rinnegando ciò che ha fatto nella sua vita. Ha semplicemente affrontato le conseguenze del suo passato, della sua gioventù, con onestà e con rispetto e dignità, cioè dei valori che la gente di oggi non conosce neanche. Non sto qui a dire che deve essere esaltato, ma neanche che venga insultato. Perché fino a prova contraria è l'unica persona di 100 anni che pagava ancora con un arresto ai domiciliari. Ma questo non c'entra nulla. Provatelo un esempio. Beh, ho capito, un esempio del genere. Ma che vuol dire, scusi? La gente che lo insulta, uno come Parenzo che lo insulta, la gente che stappa le bottiglie di champagne. Ma che mondo è? Ma che gente è? Ma che rispetto della vita hanno? Ma che valori hanno? Parenzo. Questa è gente che non ha valori. Esatto, anche Parenzo. Ma qui non c'è nessuno, non è questione del rispetto della vita, è il boia delle fosse ardeatine. Ma quale stiamo boia? Lui ha seguito un criminale. Ha seguito chiunque al posto suo. Il giudizio non è solo storico, l'unico colpevole dopo una vicenda giudiziaria penosa. Ma chi se ne frega? Il giudizio mio meglio, umano, lui è su criminale, come sono giudicati non imputabili. Vabbè, lasciamo perdere. Se ne frega la discussione, non mi interessa nulla dal punto di vista giudiziario, niente. Ah, ecco. Quello è un criminale per la storia ed è un criminale per la giustizia. Lui ha seguito un ordine durante una guerra mondiale, ma forse voi lo dimenticate, voi ragionate come se oggi stiamo. Lui oggi uscite con la carta e fai la passeggiatina in centro, Parenzo, ma ancora in tempo della guerra, c'era una guerra mondiale e una guerra civile in Italia. Ancora questa discussione qui siamo. Siamo ancora alla discussione TTP, ha solo eseguito degli ordini, TTP, una guerra mondiale. Ma penso che cazzo ne sai di cosa significa essere militari? Ma pensi che non l'avrebbe seguito nessuno? O pensi ma che di rappresaglia l'applicavano solo i tedeschi? È morto un criminale, riconosciuto. Pensi che la guerra di rappresaglia l'applicavano solo i tedeschi? Secondo me gli americani erano buoni, facevano le carezze. Non mi mordere il dito, non mi macchiare il vestito. Ma perché non smettete di urlare? Sembrate presi. Oh, vi state montando la testa, datevi una calmata. E non mi mordere il dito, non mi macchiare il mio vestito. Dai! E non mi mordere il dito, la voglia ce l'ho. Quanto moralismo in giro, caro Parenzo, quanto moralismo. Quanto perbenismo da parte di testate che fanno, utilizzano le risse, il trash come facciamo noi, utilizzano queste cose a iosa, a piene mani, nei loro siti, nelle loro versioni online. La voglia ce l'ho, non mi mordere il dito, non mi macchiare il vestito, ma non mi mordere il dito, la voglia ce l'ho. Possiamo riprendere il filo di civiltà? Non riprendiamo niente. Dai. Abbiamo anche la parietta, sì, l'assistente. Ma che assistente di cosa? Tu ti devi scusare con me, perché io ma ti spacco la faccia. Vabbè, ma tu le palle le racconti a tua madre, cornuto, le racconti a tua madre. Va bene, ragazzi, dai. Che padrone, è uno stronzo qualunque. Stai qua. Ma che cazzo è Cruciani? Stai qua. Torna, stai qua. Non devi obbedire uno stronzo. Lo stronzo è stronzo e tu rimani qua. Vittorio. Ma comando io. Vittorio. Non ordinare di andarsi, ti spacco la testa io. Vittorio. Lei rimane qua. Non rompere il cazzo. Tu sei un povero coglione. Ma perché? Quello sei. Minimo. Lascia qua. Vittorio. Sei un coglione. Vabbè. Fatto e rifatto. Nullo. Se vuoi. No, non vado nessuno. Ne sto qua e ti piccio in testa. No, ancora. No. Ti piccio in testa. Non mi mordere il dito. Non mi macchiare il vestito. Credo sia stato l'epitaffio, la pietra tombale sulla carriera televisiva di Vittorio Sgarbi, probabilmente anche della nostra, ma sicuramente anche di Vittorio Sgarbi, caro Parenzo. Così, Vittorio, più di così non può fare. Penso che possa fare, no? No, non può fare. Cioè, quando, voglio dire, ma la cosa grave è stata a un certo punto l'aggressione a quella che Paolo Villaggio ha chiamato la vecchia, perché a un certo punto è sceso come una furia nello studio e ha detto alla signora Annarella, e tu non mi dai, io bei coglioni, la povera Annarella, ma perché? Che gli ha fatto Annarella? Puntata storica, una sola ma storica. Un caravanserraglio che non si rivedrà mai più. Non mi mordere il dito. Di cui siamo, Parenzo, diciamolo, di cui siamo alla fine molto orgogliosi. Dillo tu, dilla tutta. L'immagine è questa, è come una smornia. Uno ha preso una sbornia troppo forte e il giorno dopo ha la nausea, no? Ha bevuto troppo, è eccesso di vino. Franco da Bari. Buonasera. Dica. Dico, stavo dicendo ai suoi collaboratori che io leggo il Sole 24 Ore da sempre e ascolto Radio 24 quando posso. Bene. Ora, la cosa che mi preoccupa è che, essendoci la stessa direzione, peraltro un giornalista coi fiocchi, che stimo molto, anch'io, quando ascolto Radio 24 e poi arrivo alla fine alla Zanzara, mi preoccupo e penso se il giorno dopo, comprando il Sole 24 Ore, a un certo punto sfogliandolo non mi troverò un inserto pornografico. Ma può darsi, è probabile, Prima o poi magari succederà. Guardi, secondo me è più facile che si riportino i palinsesti, voglio dire, a una linea editoriale unica. Siamo qui, Franco. Del resto le voglio dire, scriva una lettera. No, ascolti, vi state un po' parlando addosso. Scriva una lettera. Però essere buttati fuori da una televisione che ha i più bassi ascolti fra le televisioni nazionali. Sì. Insomma, voglio dire, non credo che Radio 24, o meglio la testata del Sole 24 Ore, raccoglierà quello che gli altri buttano fuori dopo un paio di ore di programmi. Sì. Quindi dunque continuate pure a spalleggiarvi, ma secondo me state proprio messi male. Siamo distrutti. No, lei sta dicendo queste cose, però guardi, mi creda veramente così. Ma siamo distrutti. Lo sente quanto siamo distrutti, Cornute che non sono altri. Questi sono dei cornuti. Lo so, un po' sì. Questo è il suo modo di fare, però voglio dire, state facendo pornografia radiofonica. E non mi dica di cambiare canale. Ogni tanto io ci ho sintonizzati. Il problema è che le piace, anche a lei, ha capito? No, assolutamente. Sì, guardi, lei gode. Lei gode come un pazzo. Lei gode. lei gode, lei gode. Vabbè, comunque le ho dedicato già troppo tempo con le parole. Lei gode, lei gode. Continua ad ascoltare le volgarità. Lei vostre. Appunto, lei continua ad ascoltare. Lei continua ad ascoltare finché un giorno lei mi continua... troverò per. Vabbè, quando si romperà le scarpe. Devo dire anche un'altra cosa. Dica, l'altra mattina, sì, mentre guidavo e ascoltavo il programma della mattina di Minoli, perfetto, hanno mandato in onda una canzone che era dedicata a voi. Sì. Se la vado a riascoltare il non giorno dopo che avete fatto quel programma televisivo. Qual una era? Canzone di Cochi e Renato, di Cochi, sì, e Renato. Qual era? Se la vado a riascoltare. No, ma qual era? Me lo dica lei, non l'ho ascoltato io, non ho tempo. Vabbè, e infatti mi hanno praticamente dedicato una canzone. Sì, era esplicita la cosa? Poi mi dice no, assolutamente. Sì. Sono persone intelligenti, chi lo vuol capire lo capisce. Sì, Cochi e Renato, andiamo a parlavano di quello che era andato in onda sui canali TV la sera prima. Ma di solito lo fanno con la Rai, No, guardi, comunque, siccome lei dice che ci stiamo parlando addosso, la stessa operazione. Guardi, lei mi sta dedicando tanto di quel tempo che vuol dire che è veramente nervoso. Io nervoso, io sono tranquillissimo. Mi sta dedicando tanto di quel tempo. La stessa operazione l'ha fatta lei adesso, perché lei dice. Segno. No, ma non ha colto nulla. Godo io di questo. Ma guardi, sta godendo godendo lei con questa telefonata e gode lei ad ascoltare la radio, ha capito? Pasquale da Lecco. Pasquale, non c'è. 31. C'è non o non c'è? Non rompere i coglioni, te l'ho detto. Quanto ascoltati la radio che vuoi, Radio Bubù, Radio che vuoi. Pasquale? Di Cruciani Parenzo, amico mio, tu nulla ci puoi fare. Pasquale? Pasquale? No, pronto? Sì, dica. Buonasera Cruciani, buonasera Parenzo. Ma buonasera. Con chi era al telefono? Non ho capito. No, con uno che mi rompe. È meglio che non lo dico la parola. Comunque la persona che mi stressa la vita, cosa stai facendo? Cosa stai ascoltando? Ancora quel programma di merda? Io gli ho detto quello che pensavo, punto. Sì, ma chi era al telefono? È un mio amico, Un suo amico. Vabbè, allora? Allora, buonasera Cruciani, buonasera Parenzo e buonasera Pier Silvio, un saluto da parte mia, Parenzo, sì, mi raccomando. Sì, sì, perché lo so che adesso l'ha chiamato Pier Silvio, no? Perché è nato lo stesso giorno di Berlusconi, lo stesso giorno di Luigi Toscani. Pasquale, vada invece di dire banalità, su, vada al sodo. Cala. Volevo dire una cosa, sono felice della morte di Priebke, strafelice, ok? Poi una cosa Parenzo, sì, amico mio, ti abbraccio fortissimo, ma tira fuori i denti, sempre il cane di mia madre che è senza denti, cerca di morderti con le gengive ma non ti fa niente, Parenzo, amico mio. Il chihuahua. Amico mio, dai, devi battagliare, amico. Va bene, Antonio da Bergamo, Pasquale, mi sta annoiando, Antonio da Bergamo. Cruciani, dica. La belva da fare, Cruciani, perché avete battuto la Barbara D'Urso. Poi Parenzo, onestamente, è una grande spalla. Va bene, va Antonio, su, andiamo veloce, dai. Allora, l'argomento non era questo, l'argomento era l'indulto. Se mi permetti, Napolitano è andato da Letta, questo è il mio pensiero, è andato da Letta, Letta gli ha detto come devo risolvere questo problema, è andato da Letta dicendo vai a dire ad Alfano che Alfano deve dire a Berlusconi di far passare la fiducia, così noi gli diamo l'indulto. Mi viene la brillante idea, un domani sono in ufficio, penso, dico fai così. Così io metto l'indulto e tiro fuori Berlusconi. Però allo stesso tempo dite agli avvocati. Ma di se Berlusconi, il ministro della giustizia oggi ha detto che è fuori Berlusconi dalla ministeria dell'indulto. Poi tutto si può cambiare, tutto si può modificare, ma così ha detto il ministro della giustizia stamattina. Qualche volta si parla del nulla, anche questa cosa di Napolitano che starebbe dietro. I tempi sono sospetti, per carità, i tempi sono molto sospetti, perché dell'indulto e della ministeria si parla da un sacco di tempo. Forse c'è sotto anche, no? Qualcosa che riguarda Berlusconi, però questa mattina il ministro della giustizia ha detto che starà fuori dal provvedimento, poi è vero che decide il Parlamento, però Antonio, allora? Sono un berlusconiano nato. Sono un berlusconiano nato, e allora? No, vorrei dire semplicemente ditemi come devo fare per fare le carte false per ospitarlo a casa mia. Ma chi? A Berlusconi. Ma che? Per i servizi sociali, ma che ne so Antonio, ma guardi che non è che va a casa sua i servizi sociali, al massimo adesso fra poco scopriamo un posto dove potrebbe andare, caro Storace, perché anche lei partecipa a questa roba qui della corsa a ospitare Berlusconi, me lo spiega? Buonasera a voi. Beh, non è una corsa, non è una roba, è semplicemente una disponibilità a far sì che possa mettere le sue indubbie competenze professionali al Giornale d'Italia, al servizio di qualcosa di utile della collettività, e noi non costiamo un euro in termini di fondi pubblici alla collettività. Ma perché dovrebbe venire proprio da non voi? Non è un giornale di sua proprietà, quindi nemmeno qualcuno potrebbe sospettare qualcosa. E allora? Ogni tanto ci sono anche divergenze, non solo convergenze politiche, quindi insomma potrebbe scontare lì questa pena di affidamento ai servizi sociali. Io credo che sarebbe, siccome è la finalità della norma è essere utile alla collettività, credo che la comunicazione e l'informazione siano utilissime. Vabbè, Francesco, ti sei voluto fare un po' di pubblicità al Giornale d'Italia, dai, con questa cosa. Non è che Berlusconi viene al Giornale d'Italia a fare la cosa, dai, è impossibile. Vabbè, insomma, non è la sede di Via Ottaviano, no, Prati, stiamo parlando di un giornale, quindi insomma non mi sembra che stiamo discutendo di qualcosa che non esista. Tra l'altro è una testata che ha tantissimi affezionatissimi lettori e sostenitori. Vabbè, ma perché Berlusconi dovrebbe venire a fare i servizi sociali proprio al tuo giornale? Scusa Francesco, adesso pure la, va benissimo, tu sei bravo perché a fare... magari spiega con indubbia competenza professionale a ciascuno di noi come si recupera pubblicità, insomma, è stato l'immago della pubblicità in Italia, magari ci fa formazione professionale. Parenza, hai sentito? Una trovata di Storace, eh? Una straordinaria trovata pubblicitaria per promuovere il giornale che come si chiama l'Italia? No, il Giornale d'Italia. Dai, ogni volta devi fare lo spiritoso. Ma Francesco, sai che Parenzo è molto contento, dice che questa sera stappa bottiglie di champagne per la morte del signor Priebke. Non sono l'unico, ognuno ha i suoi gusti. No, questo lo so. Io quando muore qualcuno prego, non stappo bottiglie di champagne. Abbiamo, diciamo, atteggiamenti diversi. Tu preghi per Priebke, che stai dicendo? No, io prego per qualunque persona che muore, diciamo un credente vive a modo, a proprio modo, diciamo, il suo rapporto con la fede, no? Sì, d'accordo, però noi ha diritto. Beh, dai, comunque il fatto che è un criminale, e credo che Parenzo la debba smettere di sfottere anche la fede, insomma, no? Ma io non sulla fede non discuto, sulla fede non di preghiera, e credo di dover essere rispettato nella voglia di poter pregare per qualunque anima se ne dunque va, tu preghi anche per Priebke? Io prego per le persone perché nel Signore possa ritrovare redenzione. Vabbè, ma questo voglio dire attiene dei fondamenti della fede. No, ma questo va benissimo, perché è un criminale senza rimorsi, è un criminale che non si è mai pentito di quel che ha fatto. Hai letto all'apertura di questa trasmissione, caro Cruciani, il testamento che questo assassino ha lasciato, in cui rivendica quel che ha fatto e addirittura ha usato parole insultanti rispetto all'Olocausto. Poi, se il signor Storace dice che usa la pietas cristiana e vuole pregare anche per un criminale, io, per carità, di fronte alla fede alzo le mani. Ecco. Non è il mio atteggiamento rispetto a un criminale. L'importante è alzare le mani e tenere la bocca chiusa per rispettare chi ha fatto. No, la bocca chiusa sul fatto che è morto il boia delle fosse ardeatine, non lo tengo. Senti, Parenzo, questa è una cosa molto più grande di te e di me, no? Quindi io cercherei di essere meno, siccome c'è una tragedia mondiale, no? Sì. Perché c'è stato il nazismo, ci sono stati gli orrori. E quindi io credo che non si può scherzare e fare satira su queste cose. No, ma infatti non lo sto esprimendo un giudizio. Sono talmente serio positivo, che dico che il signor dicendo, che... Aspetta. Mi avete invitato alla trasmissione, se mi interrompere io chiudo la telefonata. Ma non c'è problema, Francesco, non c'è problema. Ansiosi di venire da voi. No, ma non c'è problema. Avete cercato voi, perché chiedo una mia opinione. Vabbè, ma infatti stai parlando, non è che non stai parlando. Mi interrompe. Ma no, vabbè, adesso non ti sentiva magari, non ti sentiva bene magari. Se sarà un attimo caldo. No, è una tragedia grande, devi dire, però voglio dire, quando lui lascia questo testamento in cui rivendica... questa è un'altra questione, io non l'ho letto, non so di che stiamo parlando perché sono in macchina, però sto dicendo, mi è stata fatta una domanda, sì, e io ho risposto a quella domanda, punto. Cioè, poi infa... se dobbiamo fare un dibattito di carattere storico, no, allora ma che c'è un po' di tempo. No, ma figuriamoci se vogliamo fare un dibattito... No, non ti fa schifo Priebke a te? Diciamo che non avrei fatto esattamente lo stesso mestiere, questo d'accordo, passare per nazista, non sono mai stato no italiano. Sto dicendo che non è che figuriamoci se ti do del nazista, però sto dicendo non ti fa credo a me che fa schifo anche chi ha tirato la bomba su Hiroshima, su Nagasaki, cioè ci sono state tragedie, le guerre sì. Però non sono sullo stesso piano, no? Non sono sullo stesso piano. Beh, diciamo, vado a dire ai giapponesi. Cioè, mi stai dicendo che per te Priebke e gli americani sono sullo stesso piano? Beh, chi ammazza gente, credo. Le guerre dovrebbero essere tutte quante No, d'accordo, però tu spostare tutte, no? Perché sennò che si fa, i pacifisti quando conviene? No, però tu mi stai mettendo sullo stesso piano Pripke e chi ha lanciato le bombe su Hiroshima. Beh, diciamo, ha fatto molte più vittime Hiroshima. Ma ho capito, ma lì era per far finire. Se ne pagano le conseguenze per decenni, se ne sono pagate, Cioè, voglio dire, non si può fare il paragone. Gli americani in quel modo hanno posto. No, ma secondo te, ma veramente per voi Hiroshima è una cosa che può passare così? Cioè, gli americani peggio di Pripke. Tirare una bomba atomica su una popolazione inerme, secondo voi è una cosa normale che può accadere? Oggi no, all'epoca oggi no. Così come non è normale rastrellare e assassinare persone, così come non è normale mettere una bomba sotto un bidone della spazzatura in via Rasella. Cioè, non è normale ammazzare la gente, questo voglio dire. Cioè, anche lì è la stessa cosa, mettere una bomba a Via Rasella e uccidere la rappresaglia della Fossa Verde. Non è la stessa cosa, però sicuramente ha provocato quello che è accaduto. Questo sta scritto su molti libri che forse io ho letto e altri no. No, ma anche io ho letto. C'è una discussione storiografica molto interessante da questo punto di vista. Cioè, tu stai dicendo che comunque Pripke che ha reagito. Che fu ammazzato a Via Rasella senza avere la colpa di quello che cioè, la colpa, insomma, mi stai dicendo che Pripke ha reagito a una no. Beh, come no? Pripke ha seguito probabilmente degli ordini, ha fatto quello che doveva fare probabilmente. Io credo che non l'avrei fatta una cosa del genere. No, ma l'avrei proprio fatta, no? Ma io oggi ragiono con la mentalità di oggi che sicuramente cioè non è meno colpevole, però scusami, per ricostruire, tu dici non è meno colpevole di quelli che hanno messo la bomba via Rasella. Non ho capito. Non è meno colpevole degli altri, di quelli che hanno provocato. Sicuramente una medaglia a Bentivegna non gliel'avrei mai riconosciuta. Parenzo, ci sei o no? No, dicevo a Storace, veramente in modo molto serio e per nulla ridanciano. Stiamo parlando da una parte di un uomo che fino all'ultimo, fino ai 100 anni, quando ha vissuto, ha aderito all'ideologia nazista, ideologia di morte, non si è mai pentito di questa cosa, ha lasciato un testamento in cui addirittura dice che l'olocausto ci sono delle prove inventate, e dall'altra parte abbiamo un paese democratico e libero come gli Stati Uniti che con un metodo discutibile hanno fatto finire una guerra. È imparagonabile, di questo stiamo parlando, di un ideologo nazista. Lo vogliamo dire anche a tantissime famiglie che a quel paragone imparagonabile non credono. Ho capito, però che c'entra? È imparagonabile, imparagonabile. Ma è la tragedia di tutti, che vogliamo rispettare o no? Comunque Via Rasella era un obiettivo militare, Voglio ricordare a Storace che Via Rasella era un obiettivo militare. Allora, il piccolo Zuccheretti che fu ammazzato a 12 anni era un soldato. No, ma ho capito, però era comunque non sapete quello che è successo. Ma era comunque un obiettivo militare. Lui? No, ma il bambino no, che c'entra? Ma guardate, quando si colpisce la popolazione inerme, ma tu da che parte saresti stato? Scusa, spiegami all'epoca, da che parte saresti stato? Da parte del bambino, probabilmente, sarei saltato per aria pure io, se quelli erano i metodi, no? Cioè, ma da che parte saresti stato? Dalla parte di quelli che mettevano le bombe o dalla parte dei nazisti? Io non avrei partecipato a una guerra. Vabbè, quello è un altro discorso. Ma stiamo parlando di epoche diverse. Vabbè, perché è morto Pripke oggi, storia francese, no, non te l'ha richiesto, è chiaro, è morto Pripke, che si riaprono. Per questo. No, non solo, adesso facciamo quando muore la gente. No, e adesso parliamo d'altro, non ti preoccupare, non è che facciamo tutto Pripke, ma ti piace Grillo con queste sue posizioni sugli immigrati? Beh, diciamo che non mi dispiace affatto che dica una cosa che io penso. Ah, cioè il fatto che il reato di clandestinità va mantenuto. Esattamente. Per cui sei un po' grillino, lui, o grillino un po' storaciano, è un po' di destra. È un po' di destra Grillo in questo. Diciamo lui è un po' strano perché cambia opinione spesso. Sì, sull'immigrazione effettivamente un anno fa diceva che bisogna accoglierli, fare eccetera eccetera. Però in questo caso è un po' di destra, cioè è un po' vicino alle tue posizioni, diciamolo, anzi uguale. Ma oggi proprio avete preso proprio di petto. Vabbè, Grillo come Storace. Alla fine. Pripke, poi a Grillo. Chi altro mostro? Mostro adesso. Mostro. Qualcuno potrebbe dire la stessa cosa di te. Vogliamo parlare di Alfano che l'altro giorno. Insomma. Ricordo sempre i tempi di Ottaviano. Le zanzare. Siamo qui con Francesco Storace, segretario della destra, in collegamento da Roma, credo, insieme a, non accanto però, per carità Storace, non accanto a David Parenzo, sempre in collegamento da Roma. E vorrebbe vedere. Meglio no, una bella. Ma per carità, voglio dire, non Sì, ma Storacci conosce da tanti anni. Quando muore la zona, insomma. Oggi ha detto quello. Barbaro in civile, peggio di quello che è morto. Oh, barbaro, peggio di Pribica, che dice lei. Ma certo, sì. Ma ti pare che uno dice che stappa le bottiglie? Cioè, io non ho mai sentito auto del genere. Beh, oggi un sacco di persone di religione ebraica stappano lo champagne. Secondo me. Ma non è vero neanche questo. Come no? Come no, non Parenzo? C'entra niente, io parlo a titolo personale. Ma sinceramente, perché scusami, adesso non generalizziamo, non strumentalizziamo, generalizziamo. No, io non strumentalizzo, lo sento quello che no, lo dicevo a Cruciani, quello che fanno gli altri non lo so. A domanda rispondo, e se il principe del politicamente scorretto, cioè il signor Storace, che sicuramente non è nuovo alle iperbole e alle provocazioni, si scandalizza perché il sottoscritto dice nel giorno della morte di un criminale nazista che fino all'ultimo minuto non solo ha rivendicato di appartenere a un'ideologia di morte, ma addirittura ha scritto un testamento in cui dice che l'olocausto non è... Ma quanto per dire sta sciocchezza? Guarda, da 5 minuti di questa sciocchezza. Se per lei è una sciocchezza, per lei è una sciocchezza. No, quella che hai detto prima, cioè per giustificarti devi fare tutto un libro di storia. Sì, ho detto una sciocchezza, punto. No, ma non ho detto nessuna sciocchezza perché ha vissuto sin troppo. Però, scusi Storace, se una persona ma che vuoi mettere i limiti, cioè i 100 anni non li stabilisci tu, li stabilisce il nostro signore, ma quello non c'è dubbio, ma mi si chiede un sentimento personale, siccome mi si è chiesto un sentimento personale, devo essere triste, devo essere, mi dispiace, devo essere no, così sei un animale, tutto qui, non è che sei triste, sei un animale. L'anima, è morto un animale, invece è morto una persona disumana. È morto, ma io una mica sono contento di quello che ha fatto suo signore, però non mi metta a gioire se uno muore, ma che discorsi sono? È da barbari. Però è comprensibile, scusi Storace, è comprensibile. No, scusi, è un criminale senza rimorsi, è un criminale senza rimorsi. Non posso avere una pietà. Pribke. No, Pribke. Che è lui, no. Figurati. No, scusi Francesco, però c'è un punto fondamentale, non si può biasimare. Io non sono d'accordo, non stappo nessuna bottiglia, anzi, non me ne frega niente. Ovviamente è metaforico. No, che è metaforico, no? No, ma non dire stupidaggini, è evidente che è metaforico, è evidente che è un'iperbole, no? Che è un modo di dire. Però scusami, Francesco. Non mi frega a me di ricordarlo neanche per 5 minuti, lo voglio ricordare, è ovvio, no? Cioè, che me ne frega. Ma l'hai detto più volte, quando ha festeggiato 100 anni, ha vissuto fin troppo, dai, l'hai detto qua più volte, dai. L'ho detto ovviamente come iperbole, come dire, non è che mi Ma che vuol dire? E poi si spara in iperbole perché così se la cava, no? Ma perché secondo te mi compro una bottiglia di champagne? Ma no, vabbè, ho capito, se lo fai o non lo fai è la stessa cosa, se lo dici è uguale, no? È come se l'avessi è un modo di dire, no? È un'istigazione a che cosa? Beh, a fare la stessa cosa, cioè vuole arricchire quelli che vendono lo champagne, diciamo così. Però scusami Francesco, la cosa grave è il paragone invece che lui ha fatto con la questione degli Stati Uniti, questa mi pare la cosa più clamorosa. Io faccio il paragone con i lutti di tutto il mondo, esattamente come non voglio la guerra in Siria, esattamente come non voglio che si combatta con armi contro popoli. Vabbè, verdi, i nazisti erano un'altra cosa, i nazisti erano un'altra cosa. Guarda, io credo che chi fa la guerra comunque combatte in una maniera più sbagliata. Vabbè, credo che questo sia sei diventato pure pacifista. No. Io vorrei che se la guerra c'è con armi convenzionali e che non si combatte contro popolazioni inermi. Vabbè, ma quello è un altro discorso, però. No, questo è il discorso. Vabbè, d'accordo, ma che c'entra con Pribke questo? Quello è un altro fatto. No, perché voi giustificate. Io non sto giustificando nulla perché io non ho detto che bisogna festeggiare, non me ne frega assolutamente nulla, sono contrario a quello che ha detto David, però la questione è un'altra. Si può comprendere invece quando una persona, cioè delle persone che oggi sono felici perché uno nel giorno della morte ha lasciato un videotestamento in cui dice che le camere a gas non c'erano e erano solo cucine? Si può comprendere l'animo delle persone che lo odiano e che oggi festeggiano perché è morta questa persona? Sì o no? Si possono comprendere? Come ha detto che le camere a gas non cucine? Pribke ha detto le camere a gas non c'erano. Come Parenzo ha detto la sciocchezza. Vabbè, no, è uguale, su. Non è uguale. No, se fosse stato Parenzo avrebbe detto che è un'iperbole, capito? Perché questa è la cosa ridicola. È chiaro che quali cucine ho mai detto una cosa del genere? No! Ed è lui che ne risponde, ma ne rispondevo. No, vi dico, per cui è comprensibile chi è contento perché questo è morto, no? Perché questo personaggio è morto. Non è che non si può capire chi è contento. Io non lo sono perché non me ne importa niente. Guarda, io guarda, Storace, io stasera... Io ho semplicemente risposto sulla storia con la preghiera di fronte a uno screanzato che dice stappo bottiglia di champagne. Ma quale preghiera? Io stasera, alle ore, caro Storace, io stasera... Aspetta, fai se senti... Lorenzo, devi rispettare chi ha fede, perché non è che se in questo paese ma c'è una cultura sulla fede che vuole ammazzare tutti quelli che hanno fede, io sia disponibile a farmi ammazzare da gente come te. Devi capire che devi rispettare chi ha fede. Però adesso guarda che la fede, guarda che qui la fede non c'entra una beneamata fava, sai, cioè non c'entra proprio nulla la fede. Continua questo discorso, continua. La Scusami. Fede non continua c'entra esattamente niente. Continua a essere rispettoso. Ci sono milioni di persone che ascoltano quelle cose che dici o le ascolteranno domani attraverso la rete e sono inorridite di fronte a quello che hai detto. Inorridite saranno dal sentire che Hiroshima e Nagasaki sono state quasi come la vicenda di Via Rasella. Beh, comunque, scusa, Davide, uno si deve assumere le sue responsabilità. Tu hai detto all'inizio della trasmissione non stavi giocando, che eri felice della morte di Pripke e avresti non è un'iperbole, uno deve anche andare ma vai fino in fondo, scusa, ma non è un sono quelli però che se gli parli di pena di morte, no, non si fa. Capito, Parenzo? Io voglio chiedere a Parenzo se lui è favorevole alla pena di morte o no. È contrario. Assolutamente no. Ecco. Allora, in quel caso, perché dice il boia che uccide, lui dovrebbe essere contento, no? Perché prima che allora poteva venire la pena di morte, alla pena di morte che sono anche iscritto all'associazione Nessuno Tocchi Caino, guarda. Sono talmente contrario alla pena di morte che sono anche iscritto all'associazione Nessuno Tocchi Caino, per questo non è mia pena. Anche contrario al diritto di dire sciocchezze, capito? Però scusami, allora, quando qualcuno dice un attimo, Davide, quando qualcuno dice che lui è morto in un letto di 335 delle fosse ardeatine, no, questo è un cretino quello che dice una cosa del genere? Francesco, Storace? Il tema è questo. Ho capito, stai chiedendo a Davide. No, no, a te. Non credo, ma ci mancherebbe altro. Senti, per concludere, questo è il senso delle cose. Questo è il senso delle cose. No, vabbè, siamo rimasti troppo sul Pripke. Voglio chiedere no, una cosa. No, lui ha vissuto talmente a lungo che invece i 300 delle poste della Dino non hanno avuto il tempo di vederlo questo giorno, capito? Tra l'altro, io stasera se vuoi sapere davvero di miei coetanei che quando facevo politica con me, io per miracolo sto parlando in questa trasmissione, quando mi hanno sparato davanti a Piazza Larenzia, ma anch'io rischiavo di poter fare quella fine, o cambia perché il luogo dove è accaduto. Vabbè, era una cosa. Guarda, dicendo, se vuoi sapere, ma che stasera... stai dicendo? È gente che magari festeggia con te, capito? No, ma devi smettere questo atteggiamento stasera, che è profondamente razzista. Festeggiamenti a parte, Storaci, io stasera alle 23... No, io festeggiamenti a parte non li vedo proprio. Io stasera farò questo, alle 23 mi sintonizzerò su Rai 3 a guardarmi lo speciale di Un giorno in pretura col processo di appello ad Eric Pripke e riguarderò quel processo fatto dalla giustizia italiana in cui è stato condannato un criminale. Però mi ricordo che fu la condanna poi da parte del tribunale militare fu una storia strana, con intervento lì fu assolto. Cosa fa Parenzo alle 11 di sera? Me ne frega poco, facesse quello che vuole. Io guarderò lo speciale di Rai 3 sul processo a Pripke. Vabbè, questo chi se ne frega. Che dobbiamo fare? Io ho altre cose da fare. Grazie, segnalato. Un'ultima cosa, Francesco, ma Berlusconi sa qualcosa di questa cosa dei servizi sociali al Giornale d'Italia? Certo che lo sa, io gli ho dato anche un foglietto con tutta la procedura da seguire. Secondo te? No, se ne arredo, attenzione che lo dava gli avvocati, poi ovviamente sono cose che decidono loro. Ma secondo te è contento? Ma è una proposta seria, non è mica sì, tutta. Ma anche perché non è che l'ho proposto a Parenzo, insomma. Ma chi c'è lì al Giornale d'Italia, scusami? Ci sono io, anzitutto, e mi pare che insomma sia una bella cosa. E poi ci sono una decina, quindicina di collaboratori che sono lì, si alternano, scrivono. E veramente venire a trovarci in redazione, invece tranne Parenzo, vieni tu in redazione. Però scusami un attimo, ma ci sono qualche ragazzina, c'è? No, intendo maggiorenne, maggiorenne. Siamo tutti omaccioni con i baffi da spalviero. No, perché ho letto da qualche parte un tuo tweet, mi sembra. Tutti omaccioni. Su questa cosa qua di Berlusconi e servizi sociali da te, Certo. È nota la proposta, mica l'ho nascosta. Non è Parenzo, è Berlusconi. No, no, beh, lo so. Credo, mica sono stato condannato io. Dico, vabbè, ma non è detto che più o meno lo sarai. No. Poi vediamo se è retroattiva la legge quello che te... La estraña ble transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Alla Camera dei Deputati, Alessandro Di Battista, Movimento 5 Stelle, ricorda Che Guevara. Ma io dico, ma Che Guevara, perché uno deve ricordare alla Camera dei Deputati Che Guevara? Credo che fosse il giorno della morte, credo. Il 9 ottobre del 1967, 46 anni fa, venne ucciso a La Higuera, un piccolo paesino nelle montagne boliviane, Ernesto Guevara della Sierna, detto il Che. Per qualcuno un assassino, d'altro canto lo era anche Giulio Cesare. Per altri un mito da stampare sulle magliette. Per me solamente un uomo che ha fatto la storia, che ha sconfitto una dittatura, che è arrivato al potere, che anziché restare a Cuba, nonostante fosse ministro dell'industria o presidente del Banco Cubano, ha scelto di andare a lavorare, a combattere in Congo, la sua impresa fallimentare. Di Battista alla Camera ricorda Che Guevara. Ha scelto di andare a combattere assieme ai contadini che neanche conosceva in Bolivia e lì è stato ammazzato. E al soldato che gli sparò, gli tremava la mano al soldato, e prima che lui sparò il Che gli disse: tranquillo, stai solamente andando ad uccidere un uomo. Ecco, al di là dei giudizi che possono essere contrastanti, il Che ci dà un grande insegnamento, quello che può fare una fervida volontà di un essere umano. Grazie. Se ne sentiva il bisogno, caro Di Battista, ricordare non un anniversario nemmeno pieno, poi uno fa quello che vuole, per carità, ognuno ha i suoi miti, non è un delitto, ma cioè possiamo immaginare, Parenzo, se uno, non so, ricordava uno della destra, no, o dell'ultradestra, eccetera, no, in aula, alla Camera, no, dai, su, ma il 67esimo, sì, ma non si capisce che cazzo c'è. No, ma non se ne capisce. Adesso, al di là del merito di Che Guevara, che è di sinistra, sì, sì, non è questo il punto adesso. Il punto è: ma perché? Cioè, perché Che Guevara? Cioè, che c'entra con l'Italia di oggi, con tutti i problemi che ci sono, le cose? Perché devi perdere del tempo a ricordare Che Guevara, che con l'Italia non c'ha nulla a che fare? Cioè, questo adesso voglio dire, può ricordare Mazzini, Garibaldi, tutto quello che vuole, tutti chi vuole, ma perché Che Guevara? Perché? Perché avrà il mito di Che Guevara davanti alla Camera, ha voluto. No, ma uno infatti si è fatto bello davanti alla Camera, non c'aveva niente da dire, ma si è ricordato che era l'anniversario. Era stanco, sì, era lì, sì, stanco, stava giocando con l'iPad, oppure non lo so, stava facendo, parlando, sì, con Grillo, il televoto, non lo so, stava, sì, facendo le selezioni dei 5 Stelle, non ho idea, non stava mettendo, non aveva più domande da mettere online al popolo dei grillini, non lo so. Evidentemente, improvvisamente, gli è venuto fuori su Google la parola Che Guevara, sì, si è illuminato, si è alzato, ha chiesto la parola e ha ricordato Che Guevara. Non riesco a trovare un'altra spiegazione di uno che si sveglia la mattina, un deputato, va lì, alza la mano e dice: voglio ricordare Che Guevara. No, non vedo motivi, come dire, no? Non so. Andrea da Bologna, buonasera Andrea. Crozzani, complimenti per la trasmissione. Ascolti, intanto io volevo dire una cosa. Adesso sono ancora in giro a lavorare, ma sì, io tutti gli extracomunitari qua li vedo davanti al bar con le birre, che fumano, che girano in macchina. Parenzo, che cazzo dici? Ma in che senso, scusi, li vede in giro a fare cosa? Non ho capito. Poverini, sono io poverino, che sono ancora a lavorare, faccio rappresentante degli alimentari e devo pagare tutto. E quelli lì che stanno davanti al bar, cioè, si vogliono delle regole, nessuno dice niente qua. Nessuno, no, ma lei ha perfettamente niente, ragione su questo. Capito? C'è gente incazzata come delle devono, bestie, come lei. Ha capito? Cioè, noi qua lavoriamo, questi qua, chi se ne frega se si ribaltano con la barca? Possono stare a casa loro. Ah, lei dice chi se ne frega se si ribaltano con la barca? Se ne frega, lo sanno prima di partire che si possono ribaltare. Beh, questo è forte però, Parenzo, questo è forte. Chi se ne frega? Chi se ne frega di quelli che si ribaltano con la barca, dice. il mondo è pieno di cinici e di gente cattiva, quindi non, va bene, è uno dei tanti. Sì, purtroppo è così. Andrea. Purtroppo è pieno di gente così. È ancora qua, Simo. Eh sì, siamo ancora qua, fino a prova contraria, vedremo fino a quando. Monica Cirinà è un deputato del Partito Democratico, la quale dice, caro Parenzo, un animalista, che i soldi, se si levano i soldi ai partiti, alla fine che cos'è che perde? Viene a mancare l'indotto per le tipografie. Senti. Molto mercato intorno alla politica, pensate solo alle grandi tipografie, migliaia e migliaia di manifesti, volantini, comunque vabbè, ma quelli sarebbe c'è meglio, un indotto. Sarebbe meglio abolirli tutti, per il buon gusto, per l'arredo urbano, no? E per la salute delle piante. Sull'abuso, sono d'accordo con i manifesti, sono sempre quasi solo di carta riciclata. Dobbiamo salvare le tipografie che fanno riferimento ai partiti, capito? Poi uno dice che non è contro il finanziamento pubblico della politica. C'è un deputato del Partito Democratico che dice c'è un sacco di indotto intorno ai partiti. Per esempio le tipografie che pubblicano i manifesti dei partiti. I manifesti. Vabbè. Poi dice che ci sono anche i giovani che lavorano nei partiti. Ma perché i giovani che lavorano nei partiti o i vecchi devono essere più protetti rispetto ai giovani o ai vecchi che lavorano in un'azienda normale? Stiamo parlando di emergenza lavoro, di disoccupazione. Ci sono tanti giovani che lavorano anche nei partiti. Allora io non la vedrei come una cosa estremamente negativa quella di dire comunque ci sono dei fondi da destinare alla politica, se la politica vuol dire anche vita nel territorio, appunto, immobili, persone che lavorano. Venga, che ormai è tutto finito. Sai cosa che mi tiene sveglio? Antonio da Cremona, buonasera. Sì, buonasera, buonasera. Dica. A tutti. Sì, senta, io volevo fare un commento sui clandestini, profughi. Anche stasera è arrivato un barcone di 500 e io ho visto l'altro giorno a Lampedusa uno schifo, un letta che si inginocchia in maniera molto teatrale, posa la mano su una bara bianca e fa finta di commuoversi. Che quando ne sa che fa finta, scusi? Ma fa finta, perché se no, mi scusi Cruciani, se ne fregherebbe di più di quei cittadini, concittadini italiani, che pagano le tasse, che sono si trovano ora disperatamente senza lavoro e lo Stato se ne frega e paga a questi rifugiati politici, profughi, clandestini, li paga 30, 50, 50 euro al giorno, compresi gli zingari, ma io non lo so, ma dove siamo arrivati? Compresi gli zingari, sì. Ma spesso gli zingari sono italiani, in alcuni casi sono italiani. Ma sono italiani quando conviene, ma cosa c'entra sono italiani? Sono lì a non è che gli zingari sono uguali agli extracomunitari, Ma per favore, insomma, dai, lì poi si può aprire un capitolo intero su zingari italiani, zingari bulgari, zingari rumeni, ma non lo so, comunque trovo teatrale, trovo un'ipocrisia, una vergogna. Ma qual è l'ipocrisia? Non ho capito dov'è l'ipocrisia. L'ipocrisia che il baccano che si sta facendo, a Lampedusa, quando ci sono italiani che hanno pagato le tasse a questo governo, o aziende che probabilmente sono ancora e nessuno fa niente, gente che si suicida, non ho visto nessun politico. Ma io non ho capito bene, dunque c'è gente che non ho capito bene, lo scandalo qual è? Che diamo dei soldi per gli immigrati? No, l'ipocrisia è che noi, che un letta va a Lampedusa, si inginocchia e bacia la bara, quando in Italia ci sono migliaia di suicidi, gente che è senza lavoro e nessun politico fa qualcosa. Ma lì sono morte 300 persone insieme, scusi Antonio, non è la stessa cosa. Che deve fare? Deve andare ai funerali di ogni imprenditore? Qualcuno gli ha rimproverato, andato a un funerale di un imprenditore, a parte che magari sarà andato, ma qual è il problema? Sì, no, il problema è che l'imprenditore paga le tasse e con quelle tasse ci vive il politico. Ma perché c'è questa gara? Vedi, tu sei andato al funerale di quello, sei andato al funerale di quest'altro. Magari prova pietà e prova angoscia sia per l'imprenditore che per l'immigrato. Ma, ma, Ma le sembra giusto che viene qui un clandestino, gli diamo da bere, da mangiare, si prende 50 euro al giorno quello che è? Beh, si prende, lo Stato paga, non è che si prende lui e se li mette in tasca. Ho capito, lo Stato paga, ma perché lo Stato, mi scusi Cucciani, non ho capito, non una volta che sono qui non è che li possiamo ammazzare, il problema è non farli venire, non è che uno può metterli là in una camera di concentramento oppure davanti a un muro e ammazzarli una volta che arrivano in Italia. No, lei li ammazzerebbe, ma le scusi, appena un barcone affonda, lei è contento, sì o no? Non gliene frega attimo, niente, lei non gli ma mi dica, lei deve avere il coraggio di dirmi quello che pensa. Io prima mi occupo della mia famiglia, mi occupo prima degli italiani. E poi me ne frego degli altri. No, mi scusi, dunque lascio dire? Affondare il barcone e li lascio lì, giusto? No, non è quello il fatto che noi questi li accogliamo e gli diamo i soldi. Qui quando abbiamo i figli nostri italiani che sono senza lavoro, i figli dello Stato. Ma non è che si possono distribuire denaro così, ma non è la stessa cosa, Antonio, io sono per il pugno duro. Denaro qui. Ma non si può distribuire denaro, ma distribuisci come denaro? Così, dando 50 euro? Distribuisci il denaro Antonio, agli italiani, scusi una che cosa. Hanno bisogno e dopo vengono lei deve arrivare fino in fondo col suo ragionamento. Se lei sostiene, ma non lo vuole dire, che se ne frega quando affonda un barcone, sì o no? Si salvano, ovviamente, giustamente, perché sì, non li puoi far morire. Ma lei non gliene importa nulla se affonda un barcone. Ma scusi un attimo, si accolgono, gli si dà da mangiare, ma non si danno i soldi. E che fanno? Ragionamento è? Muoiono di fame, che fanno? Ma no, ma se già prendono vitto alloggio dallo Stato, in più li paghiamo anche, non lo so io. Se mi va bene, Antonio, è giusto. Grazie. Amedeo da Rimini, buonasera. Amedeo. Salve, buonasera. Dica. Buonasera, io chiamavo per quel discorso di quel signore che aveva chiamato prima per dire che Pirke aveva la schiena dritta, ma siccome Pirke era sì, ma lei si sente male, lei ha la radio accesa, spenga. Giuseppe da Reggio Emilia. Buonasera, io quel signore gli auguro di rinascere, di morire e di rinascere, però non in Italia, in Eritrea o in Somalia, glielo auguro di tutto cuore. E così poi vediamo come fa a tirare avanti. Io volevo fare un passetto indietro in merito alle scempiaggini che ha detto lo Storace. Lo Storace dimentica dei piccoli particolari. I giapponesi hanno provocato 19 milioni di morti in Cina. E non sappiamo quanti. Vabbè, ma non c'è bisogno di tornare su queste cose. Su, no, Giuseppe. Ma è passato adesso, quindi. Allora? I tedeschi e gli italiani hanno provocato 25 milioni di morti in Russia. Per la legge del contrappasso dovremmo dare la differenza che non abbiamo ancora dato di morti, perché altrimenti abbiamo vinto noi la guerra, non l'hanno vinta loro. Va bene, Gianni da Siracusa. Gianni, buonasera. Sì, buonasera, io penso ormai di essere scaduto d'attualità. Comunque, no, vada, non scade mai d'attualità. Volevo sincerarmi che fosse arrivata l'ambulanza, tutto qui. Che fosse arrivata l'ambulanza per chi? Per chi? Per Parenzo. Perché? Ovviamente. Che ha detto? Che ha detto stasera. Io fino ad oggi lo stimavo, della coppia Don Chisciotte e Sancho Panza, che come io vi ho così dipinto della prima volta che vi ho ascoltato, era lui che stimavo maggiormente perché era più equilibrato. Ancorché il suo atteggiamento provocatorio. Vabbè, che è successo invece? Niente, adesso con queste dichiarazioni. Quali? Sulla sua gioia per la morte di Pippi, che io quando muore qualcuno prego e basta, ovviamente. Pure lei prega. Lo inviterei a. Ma però io su questo, scusa, se uno è gioisce per la morte di Pippi, che non è come. A parte che io dico, non tutte le persone sono uguali, non tutte le persone sono uguali. Non tutte le persone. Non è vero, questo neanche è una falsità. Perché ha ucciso mio padre. È un'ipocrisia questa roba qua. No, non è vero, è un'ipocrisia. È un sentimento cristiano. Cioè, evidentemente dipende dalle basi. Non è vero, Gianni. A me se muore un criminale incallito, a me se muore un criminale incallito. Sono stato educato. E vabbè, pazienza, io no. E quindi coltivo una fede religiosa. E io no. Lo so, ma infatti io non pretendo che Parenzo la pensi come me, però offendere diciamo il sentimento religioso di chi la pensa al contrario di lui, ma dicendo che qua il sentimento religioso mi fa piacere, certo, perché in effetti quando insiste in questo atteggiamento nessun sentimento religioso, ho espresso un mio sentimento privato e personale. rispetto al sentimento religioso di chiunque, io sono felice, d'accordissimo, sì, però non ho criticato Storace. Ti contraddici quando Storace ti pone la domanda che avrei voluto porti, no, io, per la quale anche ho telefonato. Un'altra cosa. Sei a favore o contrario alla pena di morte? E tu come un allocco ti sei caduto? Non è la stessa cosa, dai, andiamo a Roma, Marco. Ma io infatti non voglio neanche la pena di morte per i nazisti, non ho mai detto questo, mai. Marco da Roma, Marco. Sì, buonasera. Io adesso non vorrei fare grosse polemiche con Parenzo, io non sono d'accordo con tutta questa storia che si fa. Vabbè, lui può gioire per chi vuole, a me della morte di Pripke sinceramente mi lascia più indifferente, ma vorrei che fosse ristabilita una verità storica sulla tragedia delle Fosse Ardeatine. No, sì. Cucù, scusate se vi ho disturbato. Quando la zanzarina tormenta la mia noce, passa in blanco, mañana io sono stanco. Paolo da Torino, buonasera Paolo. Oh Crociani, buonasera, grazie, dica, dica. Per avermi, grazie. Cerco di essere sintetico. Io sono un piccolo professionista, ma per lavoro giro molte società, imprese qui nella provincia, sì, di Torino, no? Sì. Allora, io così, come tutti, le informazioni le attingi un po' dai media ordinari, quotidiani, allora? Giornali. Allora, qui stiamo parlando di cazzate. Cioè? E l'indultino e il problema degli immigrati, ma che non è di ieri, ogni tanto abbiamo barconi che si girano, ma questo è tutto lecito e va benissimo, ma chi si rende conto che il paese sta implodendo su se stesso? Cioè implodendo, cosa voglio dire? Voglio dire, non c'è liquidità, le imprese stanno... Vabbè, allora? Ma allora, cioè, questi signori che stanno cercando di risolvere tutte le problematiche, l'unica cosa che io noto è pressione fiscale alle stelle, ma alle stelle significa che oggi qualsiasi imprenditore appena incassa due soldi li deve girare in IRAP, in IRPEF, in IRPEG. E vabbè, ma questo lo sappiamo, dunque? Ho capito, lo sappiamo, ma quando ne usciamo da sta cazzata di situazione? Cioè, vabbè, perché non è che adesso... si può andare avanti all'eternità, no? Sì, anche d'accordo, patente. Dunque che cosa c'entra questo discorso con quello che stiamo facendo? No, il discorso c'entra che l'attenzione comunque è fatta su situazioni e su argomenti che comunque sia non portano nessun beneficio al paese. Un attimo, un attimo. Pronto? Oh, professore! Come sta? Bene, bene, siamo qui. L'abbiamo seguita il Radio Belva. Beh, grandissima. Mancava solo lei, mancava professore. Solo lei, professore. Grandissimo esperimento televisivo, una prima assoluta che resterà nella storia della televisione. Io lo dico sul serio. No, ma è la prima, è anche l'ultima da quello che ho capito. E beh, certo, è naturale, è l'ultima. Certo. E quindi veramente da incorniciare. Da incorniciare, bellissima proprio, una cosa meravigliosa. Una specie di succo di caravanserai. Vittorio Sgarbi vi ha fatto un grandissimo regalo. Pensava, beh, insomma, di chiudervi, invece va osannato. Via ha osannato. Ha creato un nuovo genere di televisione. No, ma non un nuovo genere che già esisteva. Noi abbiamo fatto un condensato, per questo non sopporto il moralismo, l'ipocrisia di questi di queste ore, dei giornali di oggi. Abbiamo fatto un condensato di 2 ore e mezzo di quello che tutti quanti guardiamo dalla mattina alla sera, le telerisse. Sì, esatto. Era un condensato in 2 ore e mezza del peggio, del peggio, del peggio. Guardi, e allora quando, che cazzo volete? Guardi, io quando ho visto la trasmissione, che ovviamente l'ho vista tutta, sì, ho fatto un paragone con come dire, con la novità che rappresentò Quelli della notte di Arbore, sì, nel mondo televisivo. Ecco, mi sembrava proprio una trasmissione che innovasse il genere di questi noiosi talk show con i quali ci dobbiamo... Beh, diciamo che rispetto a quella roba lì c'era un po' più di caos. C'era un po' più di... C'era un pochino più di ordine con Arbore. Però voglio dire, la rottura con la monotonia e con il conformismo. Ah, quello sicuro, guarda. Comunque, professore, guardi, mancava solo lei. Mancava solo lei. Vabbè, non mancherò, infatti, meno male, sennò me l'avrebbero già... No. Crocifisso più di quanto non siano abituati a fare. No, ma che crocifisso, lei combatteva, avrebbe combattuto come un leone, altro che avrebbe combattuto come un leone. Vabbè. Allora, senta professore, ma lei andrà ai funerali di Pripke o no? Non ho capito bene. Andrà ai funerali del signor Pripke? No, non ci vado. Perché? Perché sono occupato in altre cose e ho dato la mia testimonianza di rispetto per una persona che è morta come qualsiasi altra persona. Vorrei essere al posto suo, perché avendo compiuto 100 anni questo significherebbe che anche a me toccherebbe ben tardi di andarmene da questo mondo. Però, ma quando si fanno questi funerali, lo sa? No, non so assolutamente niente, non so assolutamente niente e non ho nessuna intenzione di andare. Poi nemmeno, va bene che ai funerali non si invita, però insomma qua sono capaci pure di fargli inviti, però non ho ricevuto nessuna richiesta. Però scusi professore, ma c'è Parenzo qui che all'inizio della trasmissione ha detto che lui oggi brinda, stappa lo champagne metaforicamente parlando, per la morte di Pripke. Ma se si brindasse anche alla morte mia a 100 anni, io sarei ben disponibile, perché avrei raggiunto un risultato che normalmente i mortali non conseguono. Quindi se Parenzo mi promette che brinderà i miei 100 anni, io sarei contento. Ma non è esagerato Parenzo quando dice che brinda per la morte di Pripke? Ma io ai suoi non brinderei mai, perché lei non è un criminale, quindi guardi, i criminali, però io faccio solo questa osservazione, già l'ho detto più volte, le persone incriminate delle fosse ardeatine furono 50, 49 sono state assolte dai nostri tribunali, compreso il Tribunale Superiore Supremo Militare, che allora... Ma che vuole dire con questo? Scusi, professore. No, voglio dire che in questo paese ci sono state due sentenze, una per 49 che è stata di assoluzione, anzi di non punibilità per aver eseguito un ordine dato... Ma un altro invece è stato condannato. Però scusi un attimo. Lei stasera, professore, si riguarda in televisione o no? Visto che su Rai 3 ridanno il processo a Pripke. O è stata una vergogna il processo a Pripke, secondo lei? Guardi, io non ho perso un po', diciamo così, i contatti con questo tipo di questioni. Poi sul piano tecnico è stato certamente un processo per me di grande interesse, perché sono stati affrontati problemi giuridici molto importanti. Però voglio dire, importanti. Io voglio capire una cosa: nella vicenda che ha scatenato le fosse ardeatine, secondo lei, cioè, la rappresaglia era giusta? Ma guardi, secondo quelle che erano le leggi di guerra di allora, a Via Rasella hanno risposto in questo modo. Naturalmente parlare di giusto è un po' una parola grossa, perché stiamo parlando di morti da una parte e dall'altra, però la situazione era, dal punto di vista del diritto di guerra, certamente regolamentata in quella, cioè, in quella maniera. Nel senso che secondo lei la rappresaglia fu corretta secondo le norme all'epoca? Ma come fa a essere corretta una rappresaglia? Ma che ne so giudicare, io? Non si può giudicare in tempo. Comunque di guardi, c'è uno che mi ha scritto, Taormina, c'è uno che mi ha scritto, professore, su Twitter: ricordo con rammarico che Carlo Taormina, già difensore di Pripke, è ancora vivo, un signore. Meno male, vuol dire che sono sulla strada dei 100 anni, mi fa piacere. No, però lui lo dice, ricordo con rammarico che Taormina, già difensore di Pripke, è ancora vivo. Sì, che la vuole morto, questo è il punto. Ma vabbè, ma questo allunga la vita, allunga la vita. Ah, dice la cosa, Ma sì, io penso proprio di sì, guardi, ma sai quanti io mi vogliono morto. Io mi ricordo il processo. No, ma chi se ne frega? Chi se ne frega? Ma tutti... è invece un programma bello, perché stasera Rai 3 alle 23 ridà il processo Pripke, dove è stato condannato. E immagino che ci sarà anche Taormina lì a fare la sua, come si dice, la sua... Siccome ci starò anche stasera. Scusi, professore, ma è vero che lei è contro l'introduzione del femminicidio, del reato di femminicidio? Sono contrarissimo, mi sembra una disparità di trattamento contro il principio di uguaglianza previsto in Costituzione. Cioè? Da oggi in poi conviene ammazzare gli uomini, perché le donne le paghiamo di più, quindi tanto vale che... Ma come? Se uccidere un uomo... si paga meno che rispetto all'uccisione di una donna, d'ora in poi ci sarà un incentivo ad uccidere gli uomini, prima cosa. Seconda cosa, non c'è ombra di dubbio che, siccome siamo tutti uguali secondo la Costituzione, a prescindere dal sesso, dalla religione e da quant'altro, qui invece questa norma dice una cosa diversa, che è una stronzata di quelle che non finiscono mai, perché le aggravanti per le condizioni di inferiorità psichica o fisica, come dovrebbe essere per la donna, perché oggi si dice che la donna è diversa dall'uomo, cioè la donna ha bisogno di maggiore tutela perché è più debole, perché altrimenti non avrebbe senso per parlare. Vabbè, secondo lei è incostituzionale, insomma, vabbè. No, ma prima che in Costituzione è una grande stronzata. Vabbè, quello non c'è dubbio, ecco. Anche secondo me. Ma scusi, allora fra poco si introdurrà il, che ne so, il reato quando uno uccide un omosessuale, un aggravante? Il maschicidio, appunto, sì, appunto. È veramente è un percorso di quelli. Eppure vedo che c'è stata una grande un grande applauso a questa nuova. Ma scusi, però professore, lei vuole pure che nella ministeria dell'indulto venga inserito Berlusconi? Mi è ridiventato berlusconiano un'altra volta? No, io dico, ho detto un'altra cosa, ho detto che questo sia un paese nel quale per 57 milioni e 999 possono essere applicati indulti e amnistia e per uno no, beh, questo mi pare veramente un'altra cosa assolutamente. Ma lo dice la cancelliera. Ma la cancelliera dice una cosa che non corrisponde alla verità, perché non potrà mai passare una norma la quale non preveda che per una persona del nostro paese non possa essere applicata. Ma no, per quei reati e per quelle condanne, cioè. Ma sì, ma vedrà che tutto quanto andrà secondo programma. Cioè, qual è il programma? Secondo me se ne fa niente. Cioè? Alla fine se ne farà niente. Ah, non fanno né amnistia né indulto. Amnistia né indulto. Perché? Se mi sbaglio. Perché continuerà l'ipoteca berlusconiana su questo tipo di provvedimenti e quindi ci rimetteranno quei poveracci che stanno in galera, che sono 67.000 invece dei 42-43.000 quali contengono le carceri italiane. Questa sarà la conclusione. Che professore, non prometta di rinunciare ad amnistia e indulto, e allora vabbè, è un altro paese. Parenzo, dove sei? No, voglio dire al professore, dove sono? Sto prendendo un taxi per tornare a casa finalmente dopo una giornata lunga e faticosa. No, volevo dire al professore che ho letto qualcosa sulla signora Franzoni, che mi pare sia andata. Ah, sì, è vero. Si è uscita dal carcere, sì. È uscita dal carcere, mi pare sia i lavori socialmente, no, fa dei lavori fuori dal carcere. Che dobbiamo chiedere alla signora Franzoni? Lavoro esterno. Che dobbiamo chiedere alla signora Franzoni, caro Taormina? Ma guardi, io gli chiedo solo di darmi i soldi che mi spettano, poi il resto sono fatti. Ancora con questi soldi? Quanti? Ancora sempre, soldi. Sempre. La causa civile è stata intrapresa, io aspetto che i giudici decidano. Ma alla fine quanti denari sono? Che lei ha fatto causa alla Franzoni? Io ho fatto causa alla Franzoni chiedendo il pagamento di spese e competenze ed onorari per la somma che ben voi conoscete, che è di 750.000 euro. Quanto? 750. Ma come, me l'hanno pure condannata, poveretta, scusi. E mica l'ho fatta condannare io. Anzi, io gli ho consentito oggi di uscire. Le ho consentito oggi di uscire dal carcere perché per effetto delle iniziative processuali che io ho preso, vedi, tra tutte, il giudizio abbreviato e la concessione delle attenuanti generiche si è fatta 16 anni, meno 3, 13 per un omicidio, 13 anni credo che sia una cosa di poco conto, premesso che ritengo e continuo a ritenere che la Franzoni sia innocente. Sì, d'accordo, in ogni caso è stata condannata, eccetera, eccetera, ma questo non significa nulla, e lei chiede 771 mi sembra. 750, 70, adesso non lo so perché non ho fatto il conto, non ho il conto preciso. Ma tutti questi soldi, ma com'è possibile tutti questi soldi? Dal 2002 al 2006 sono 4 anni di lavoro, Ma è 4 anni quant'è? 770, professor? E le spese dove le mette? Quanto ha speso? Avrò fatto almeno 100 viaggi aerei, almeno 100 viaggi. Almeno 100 viaggi ho fatto, almeno 100 viaggi. E che le devo dire? Questi l'ho dovuti fare fra Torino e Milano e quant'altro, quindi. Poi, ma a Torino che c'era la scorta però? Che c'entra che c'era la scorta? L'aereo me lo devo pagare per conto mio, mica me lo dovevano pagare gli altri. Arrivava a Torino, c'era sotto la macchina con la scorta, via a Cogne, no? Com'era la storia? No, andavo per conto mio. No, non c'era la scorta. Come no, non c'era. Ma lei c'ha ancora la scorta, professore? No, non ce l'ho. Ma da qua? Come non ce l'ha più? È così. È finita la cuccagna? Come? No, non è questione di cuccagna. È finita la cuccagna, professore. È stato necessario, è stato così. È finita la cuccagna, su, dai. È necessario, invece non è stato più. È finita la cuccagna, dai, professore. Nessun problema, ma quale cucca? Io non ho bisogno di niente. Io non ho bisogno di niente. No. Niente di nessuno. D'accordo. Lo ricordi sempre. Sì. Non ho bisogno di niente di nessuno. Ho capito. No, professore, scusi. Voglio capire questo. E adesso come va? Va al lavoro con la sua macchina, no? Ma io ci ho sempre avuto autista in macchina, quindi non ho nessun problema. Ma come autista? Sempre l'autista e la macchina. Certo. E quanto costa Nodista al mese, per curiosità? Non lo so quanto mi costa, è lo studio che lo paga, mica lo pago io. Ma come? Lo studio, un problema. Cosa pazzesca. Come pazzesca? Scusi, ma lei se c'ha Nodista non lo paga, che ce l'ha gratis. No, grazie a Dio la mia attività professionale mi consente da sempre di fare così, sia per me che per la mia famiglia. Scusi. Alla faccia di che... Vede, io sono contrario a queste forme di... Alla faccia di cosa? La faccia di chi non ce l'ha l'autista. Sì, dice, perché me ne frega a me? Ma come che me ne frega? Come? Ce l'ha vuol dire che non è in grado di percepire guadagni tali da consentirglielo. Bisogna sempre rilanciare. Scusi, professore, ma lei che farebbe con i barconi che arrivano qua? Mi dica la verità. No, per carità. Con i barconi che arrivano qua, che farebbe? Ma guardi, il problema dei barconi ha due sì, però non lo facciamo. Ha due facce di metà. Non la complichiamo, che faremo? La prima, agirei perché nessuno perda la vita in qualsiasi occasione, d'accordo. Ovviamente nemmeno in questo. Io agirei perché ciascuno rimanesse a casa sua, perché veramente siamo arrivati a dei livelli di presunta accoglienza che non ci possiamo permettere, perché non ci abbiamo i soldi, non ci abbiamo i mezzi, non ci abbiamo i luoghi, siamo un paese piccolo, non possiamo certamente spalmare gente su tutto il territorio, dunque ognuno a casa sua. Dalla ministra per l'immigrazione, pure la Chieng che fa in Congo, pure... non è stata un'immigrata pure lei? Vabbè, ho capito, adesso la mandiamo in quella italiana, professore. È pazienza, non è problema di essere italiani, perché o è meno. Negra, allora, perché è negra. No, io non dico questo. Non dico questo. Lei ha detto, ha cominciato dal ministro dell'integrazione, quella è dell'immigrazione. Magari avevamo bisogno della Chieng per avere un ministro dell'integrazione. Io ho fatto il sottosegretario agli interni con delega dell'immigrazione. Poi l'hanno mandata via. Assolutamente, me ne sono andato via io, tanto per cominciare, quindi no. Non è assolutamente come... Vabbè, però l'hanno mandato via perché lei difendeva quelli dell'Andrangheta, non mi ricordo. No, mi sono dimesso io. Vabbè, mi sono dimesso sì, perché c'era la polemica però. La polemica c'è per forza, perché chi ruba può rubare tranquillamente senza nessun problema. E anzi, più ruba e meglio è, perché fa parte delle cricche, fa parte dei centri di potere dei partiti e quant'altro. Io invece che guadagnavo e continuo a guadagnare con il mio lavoro onesto, naturalmente non ero tollerato e quindi me ne sono andato. Caro professore, un abbraccio, a presto. Un abbraccio. Ognuno a casa sua, dice lei. Ognuno a casa sua. Ciao. E poi fate un'altra bella trasmissione, perché vi staremo a vedere. Ciao. Bene, Parenzo, ci sentiamo lunedì 18:30. Siamo vivi, vegeti e mica moriamo noi, Ciao. Ormai è tutto degradato. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7:30, so, alle 8. Lei ha ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Il mio obiettivo è mandare in merda la vostra televisione. Voi cercate di fare con gli altri. Volete mandare in merda gli altri? Mandate in merda voi, io sono più bravo di voi. Sì. Radio 24. La passione si sente.